canzone de sto core appassionato, che spasimi per lei tutte le pene, fai e senti col canto delicato sta fiamma che me brucia nelle vene. Di che per lei soltanto io smanio, soffro e canto. Nell'aria dolce e tenera, assieme col profumo d'ogni fiore, porta una nota limpida con l'eco de sto core, che dice con una voce d'incantesimo: amore, amore, amore. Chitarra che m'accordi in fa minore, mentre la notte è limpida e stellata, fa che quest'eco che sussurra amore lo senta pure lei, la meglio fata, che dorme tra l'incanto all'armonia del canto. Nell'aria dolce e tenera, assieme col profumo d'ogni fiore, porta una nota limpida con l'eco de sto core, che dice con una voce d'incantesimo: amore, amore, amore, amore. Mamma mi dice sempre che quando rimase incinta ci sperava tanto, dopo due maschi, che io nascessi femmina. Però s'era fatta convinta de no. E infatti, per non sbagliar, m'ha fatto il corredino senza cose rosa. Manco azzurre, eh? Diciamo che c'era... una prevalenza de verde. Non te dico com'è stata contenta che son nata femmina. E te credo. Per tutta la vita c'ha avuto a che fa' con uomini. Padri, fratelli, mariti, figli, nipoti, una fanteria, insomma. E ci vuol coraggio. E infatti, se è guardata bene di darmi un'educazione femminile, o meglio, mi ha dato l'unica educazione che secondo lei andava bene per una femmina. Regola numero uno: non da retta a sogni. E il principe azzurro non solo non esiste, ma più riesci a stattene per conto tuo e meno problemi avrai. Perché almeno ci avrai solo i tuoi. Regola numero due: all'uomo digli sempre di sì. Tanto se gli dai torto, serve solo a passare da rompicoglioni. Che a lui gli serve la sentisse importante. Beh, oh, ci aveva ragione. Sai le volte che ci ho provato a ragionare con l'uomo mio? Sì, amore, sì. Sì, sì, sì, sì. Sì. No. No, amore. Ma come chi me credo da essere? Io. Me stessa, per esempio. Lo so, è colpa mia. Davvero, lo dico davvero. E mo ci sto più attenta. Però resta il problema che come faccio sbaglio, che ve devo dire, un c'ho a stoffa. Un c'ho a stoffa rosa, quantomeno. Deve essere stato il corredino verde. Ma sai che c'è? Ma chi se ne importa? Da oggi in poi, basta. Faccio come me pare. Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma, prima sera. Er te verete serve da cintura. San Pietro er Campidoglio pellettiera. Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma, prima sera. Gira si la vuoi gira, canta si la vuoi canta. Gira si la vuoi gira, canta si la vuoi canta. Treste vere da quando, treste vere da quando t'ho lassato. C'avevo un petto e il cuore, c'avevo un petto e il cuore e l'ho perduto. Dimmelo bello sì, l'hai ritrovato. Treste vere da quando, treste vere da quando t'ho lassato. Gira si la vuoi gira, canta si la vuoi canta. Gira si la vuoi gira, canta si la vuoi canta. De qua della dar fiume, de qua della dar fiume c'è una stella. E tu non puoi guardarla, e tu non puoi guardarla, tanto brilla. E questa è Roma mia bella. De qua della dar fiume, de qua della dar fiume c'è una stella. Gira si la vuoi gira, canta si la vuoi canta. E gira si la vuoi gira, e canta si la vuoi canta. Roma che è la più bella, Roma che è la più bella sei del mondo. Io penso sto stornello, io penso sto stornello e te lo mando. Tu me parli d'amore, io ti rispondo. Roma che la più bella, Roma che la più bella sei del mondo. Gira si la vuoi gira, canta si la vuoi canta. E gira si la vuoi gira, e canta si la vuoi canta. E gira si la vuoi gira, e canta si la vuoi canta. Quando te voglio bene, io te voglio bene tutto. Felice, sereno, triste, depresso, ingiusto, egoista, generoso o dubinse na tenaia. Quando te voglio bene, io voglio bene a tutto. A qua santa donna de tu madre, a quel brav'uomo de tu padre, ai tu fratelli, a tu sorella, all'amichi tua più cari, a tu moglie, soprattutto a lei. Eppure a tu marito, se ce l'hai, e perché no? A tu figli, agli nipoti, al cane, al gatto tuo, eppure alla tartaruga e al pesce rosso, a quel ramo che entra drento alla finestra di camera tua, a quell'albero di cerase che c'è là drento al giardino, al pizzicarolo onde fai la spesa, all'album de foto che te piace, al segno zodiacale, agli pedalini tua bianchi e corti, alla puzza tua dei piedi, all'odore che c'hai e che non mi scordo, alle mani, agli occhi belli, alla curva delle spalle, al sorriso, ai capelli. E quando te voglio bene, io a te te do tutto. Casa mia, il letto, le lenzuola belle e fresche, puro le fette biscottate te do, piene di burro e marmellata. Te do l'acqua, la birra, il vino mio, il tè alla menta che a me mi piace tanto. Te do il lavoro mio, che o vuoi. E il sentimento te do, l'amore, la comprensione. Quel po' de cuore che mi è rimasto intero. Quando te voglio bene, io te do tutto, io per me non voglio niente. Io te do tutto a gratis. Tranne il dolore mio e il male che mi fai. Quello, amore caro e bello, no, quello se paga. Thank you.

cuori isolate stamattina, come te posso amare, come te posso amare. Se esco da sti cancelli, guarda che non sa da pagare. Amore, amore, mandami un saluto, che sto qua a San Michele carcerato. So diventato un albero caduto. Abbandonato, come te posso amare, come te posso amare. Se esco da sti cancelli, guarda che tu la da pagare. Si er papa me donasse tutta Roma e me dicesse la sasta chi cama, io gli direbbe no, sacra corona, meglio l'amore mio che tutta a dia verità, però, quando che parlavano de popolo, pensavo sempre a Gustarello. Quello che c'è al banco de frutta lì a Parione. Che a Gustarello me vo bene, e me vo sposà. È un bravo uomo, ma dice certe cose che non me parano giuste. Lui, sta storia dell'Italia, dice che non serve, che qua comanna il Papa, e che a Roma, fino a che c'è sta Dio, c'è sta puro il Papa. Aninè, questi sono venuti a dirci come dovevamo da campare, ma non sanno proprio niente. Ma che ve pensate che so pieni di coraggio? O sapete dove ci vuole il coraggio? Alzasse tutte le mattine e a sentire freddo e caldo per lavorare e a sorridere ai signori. Ma io non gli credo. Io non so niente, ma c'ho l'orecchio e l'occhi buoni. E a dirla tutta, mo, da quando se ne so idi sti italiani, c'ho puro il naso per sentire che sta città puzza. Perché ci avevano ragione a dire che è piena di monnezza e che puzza. E io la sento. E che buona, sentite. Eppure se non so niente, io mi dico che se siamo arrivati a sto calendario vestiti e che parliamo, vorrà pure dire che il mondo cambia, no? E allora perché non potremo cambiare pure noi altri? Ma non lo posso dire a alta voce. Cagustarello s'arrabbia. Shh! Boh, Nanine, ma che ve strillate? Parlate piano. Che mo ci stanno sti francesi che voi non li capite, ma loro capiscono a voi. Parlate con me se volete parlare. Ma parlate piano. Però io non c'ho paura, da quando che lo vidi, io non c'ho più paura. Ma no, no, non sto a parlare da gusto, no, io sto a parlare di lui. Com'era bello con quel baffetto e quel capello pettinato, tutto vestito bene, con le mani morbide, mica come quelle da gusto che sono tutte rovinate e sanno le sellero, no, no, lui ce l'ha belle, è tutto bello. L'unica cosa che c'ha brutta è il nome. Si chiama Zelindo. Ma dico io se uno si può chiamare Zelindo. Zelindo. Lui mi parlava. Mi insegnava tante cose. E io mi ritrovavo con la bocca spalancata come a una creatura quando gli canti per farla dormire. E quella mica che dorme. Quella te guarda e non vuole che smetti mai. Che quando che l'ho visto la prima volta, lui mi sorrideva. E manco ancora l'avevo guardato in faccia che mi si è aperto il cuore. Con quell'occhio che gli cambiavano colore ogni momento. Ma come mai che mo so azzurri come il cielo sopra Ponte Sisto dopo che ha piovuto? Perché sono felice, ma rispondeva. Una volta v'ho veduto solamente, ma v'ho pensato sempre, ve lo giuro. come anch'io da piccica dal muro, così me state voi, drenta la mente, drenta la mente, ma sì, c'avete il cuore che va somiglia al viso, stella de paradiso. Non me negate, non me negate un friccico d'amore, ah sì, d'amore. Non c'ho più pace da quel giorno in poi, più dico de scioglieme e più me lego. Io per voi soffro tanto, piagno e prego, un bacio alla Madonna e cento a voi, e cento a voi. Poi aiuto via, dopo che hanno combattuto. Nina Bela, ci dobbiamo salutare. Me lo disse con quella sua bella voce forestiera. E io che faccio? Mi scriverò! Sì, l'allero mi scriverà, che io manco so legge. E infatti mi avrà dimenticato, puro se io lo penso. Ma come fai a non pensarmi, se io te penso sempre? Ma sì, c'avete il cuore che va somiglia al viso, stella de paradiso. Non me negate, non me negate quel friccico d'amore, ah sì, d'amore. E mi viene da piangere dalla mattina alla sera. E allora vado da Gustarella a farmi consolare. Lo so che non è bello far così, ma che ci devo fa? Almeno lui mi sta a sentire. Ci sono ita pure oggi, a dire la verità. Ma lui era strano. Mi disse tante cose. Ninè, ma voi che volete che io non ve posso donare? Perché non li guardate l'occhi mia? Ma non lo vedete che c'è tutto il mondo qua dentro? Tutto il mondo solo per voi. C'è sta il popolo, l'Italia, la libertà. Ma se non me volete bene, Ninè, se non volete bene a me, non c'è starà niente per nessuno, non lo capite? No, non lo capisco. Io non ve voglio a voi. Io c'ho in testa solo a Zelindo mio bello. Mi dici allora perché è sempre de qua a me passi? De qua non c'è passà! E io me ne volevo scappare via. Ma lui mi fermò e mi disse più tranquillo. Tieni, Ninè. Piede vest'arancio. T'ho domandato come si scrive una canzone. E poi me ne so andata. È un anno che è passato tra melodie d'amore e mandarini in fiore. E io ci penso che tanto m'appartieni, ma non ne resta niente. Allora me ne vado, me invento una canzone sui mandarini. mandarini in fiore. Me muovo in libertà, me guardo tutti intorno e aspetto che ritorni, che un giorno me rincontri e ancora me sorridi tra i mandarini. Domandato come si scrive una canzone e mai risposto col silenzio. È questo, sai, l'amore, anima mia, è questo, sai, l'amore, l'amore che c'è. E allora me ne vado, me invento una canzone sui mandarini in fiore. Me muovo in libertà, me guardo tutta intorno e aspetto che ritorni, che un giorno mi rincontri e ancora mi sorridi tra i mandarini in fiore. E questa anima mia la chiamano illusione, ma io senza l'amore non ce so proprio sta. Tieni, ne, piate quest'arancio, magnatevelo a mozzichi e sentirete il zucchero che vi brucerà la lingua. Ecco, per me voi siete come st'arancio. Ninè, io sto qua solo per voi. Solo per voi mi alzo la mattina. Solo per voi faccio pensieri de futuro. Solo io lo so chi siete voi. Voi siete come a sta città, che tutti la vanno e nessuno la conosce. Io lo so chi siete e dove volete annà. E io voglio venire con voi. Però, se non me vuoi bene, Ninè, de qua non ce passà, da me non ce tornà. Viacce solo per dimmi, Agustare, io l'Italia la voglio far con te. Oh, e io non ci ho capito più niente, e me ne so ida, me pareva matto. Però, mo mi sa tanto che ci ritorno. Quanta pena stasera c'è sul fiume che fiotta così. Disgraziato chi sogna e chi spera, tutti al mondo dovemo soffrire. Se c'è un'anima che cerca la pace, può trovarla soltanto che qui. Corrente. E quando canta l'eco si risente, dice sì è vero fiume che tutta è la pace. Fiume affadato, fammi più d'un mese è passato da quel giorno in cui dissi Ninè, questo amore oramai tramontato, lei rispose, lo vedo da me. Sospirò, poi mi disse addio amore, io però non me scordo di te. Llegò orsi appresso, ma nulla arrivai. La cerco ancora e nulla trovo mai. Si è vero, fiume, che tu dai la pace. Me so pentito, fammela trovare. Proprio sotto al battello, so dentro un fuoco un grido più là. Poi s'aggira e ce fa il mulinello, poi riaffiona e riaffiora più là. Soccorrete, c'è la donna affogata! Poveraccia, penava chissà. La luna da lassù fa capocella, rischiara il viso de ninetta bella. Cercava pace, io gliel'ho negata. Fiume boiaccia, gliel'hai data tu. Sono Nina. Anzi, sono Ninette Jolicoeur. Sì, proprio la Ninette del fanfulla illustrato. Quella Ninette che racconta di cappellini, inchini e ricevimenti. Tutte le dame di Roma mi leggono ogni domenica e ho molto successo. In verità ho anche un nome di battesimo, ma questa è una strada dove le donne perdono il loro nome. Così mi ha detto la mia cameriera e allora io ci sono venuta. Non so se per capire chi sono o per dimenticarlo. Ha ragione lei. Qui c'è silenzio. Qui le donne non hanno più nome. Sono mesi che mi muovo per queste strade cercando pace. E oggi non so financo chi sono. Ma meglio così. Ho imparato tanto camminando tra i muschi del foro, i cantieri dei prati, sui ciottoli dell'Appia, nei pantani del fiume, per le stalle e lo sterco dei cavalli qui a Trastevere. Ho imparato tra gli odori e gli occhi della gente, tutti quegli operai del sud che parlano linguaggi incomprensibili, quel sud che dovevamo veder risorgere e questa Roma che doveva diventare nostra e che invece ci guarda indifferente da dietro le finestre, indifferente ogni finestra, ricca o misera, nobile o plebea. Siamo arrivati noi a riempire il corso, a imbellettare con stupide carrozze il pincio la domenica, a colmare di parole le stanze dei caffè. Neanche 20 anni che i bersaglieri sono entrati e già parliamo dell'anima decadente di questa città senza speranze. Così dice mio marito Alfonso. Lui parla sempre dell'anima decadente romana che invade i nostri cuori, i nostri cervelli, la nostra spinta al rinnovamento. Ma non è ciò che io vedo. Io vedo una città dove dimentichi chi sei se ti lasci andare. Però sono un ipocrita. Sono un ipocrita perché vivo raccontando il vuoto che mi circonda e da cui fuggo ogni giorno prima dell'ora del tè. Odiosi convegni con insulse persone che riempiono le mie orecchie di inutili suoni. Letterati, poeti, giornalisti, vili lacchè del politico volgare, pronti ad elemosinare e a vendersi per un misero soldino, e poi parlano dell'anima decadente di Roma. Sì, anche Alfonso è come loro. Il nobile che ha sposato la borghese con la ricca dote. Però lui è un artista e quindi l'ha voluta colta e aperta al futuro, la moglie. Perché pure lui è un ipocrita. E lo dico senza rancore. In verità l'ho sempre saputo, eppure lo amavo. Come si amano i bambini che hanno bisogno di tutto e non sanno ancora nulla. Però questo figlio che porto dentro e che nascerà, lui lo amerò di più di suo padre. Lui non parlerà di decadenza. Lui conoscerà ogni linguaggio incomprensibile e non avrà paura. Non sarà come suo padre, che ha paura di tutto. Soprattutto di me. Perché le sue poesie nessuno le capisce. E io invece sono Ninette. Quanta stoltezza c'è in lui. Mi fa ridere. Che importa a me di Ninette? Che importanza hanno un merletto e un guanto di seta? E mi dà della donna sciocca e leggera che vive dell'anima decadente di questa città che ci invade e ci rende tutti moralmente esecrabili. Ma la sua è solo una scusa per giustificare se stesso, la sua nullità e i suoi tradimenti continui. Mi fa pena lui e mi fanno pena tutte quelle donne con cui trova piacere e che poi fingono di essermi amiche. All'inizio soffrivo, ma da quando cammino ogni giorno per Roma ho imparato a non pensare, a lasciare andare il mio dolore. E l'altro giorno finalmente ho capito. Ho capito quello che dovevo fare. Era rientrato a casa, sporco di belletto. Gesù, com'è volgare per un uomo tornare sporco di belletto. Ho provato disgusto. Era indegno anche di un mio articolo. Anzi, lo voglio scrivere per la prossima domenica. Voglio parlare dell'ineleganza e della volgarità di un uomo che torna a casa sporco di belletto, degno solo di un romanzo per servette. Io invece mi sono sentita tanto elegante. Non lo so cosa mi sia accaduto, lo guardavo e un poco ridevo, e allora lui è divenuto tutto rosso in volto e ha cominciato ad alzare la voce, e poi l'ha detto. Non avrebbe dovuto dirlo, non in quel momento, e non così, ma l'ha detto. Ha detto che la decadenza dell'anima romana ha invaso anche le poltrone della nostra casa. E io allora all'improvviso ho sentito una voce. La voce di un'altra Ninette che parlava in mia voce. Ero sempre io, ma non ero più me stessa. Questa voce diceva... Ah bello! Ma che me va a far credere che Pasqua vi è de maggio? Ma sai che c'è? Perché non te ne vai? La decadenza lascia qua che lei ce penso io. E tu vedi dannattene con l'anima. Dell'immortacci tua. Io sono Nina. Sono Nina della Araceli. Ma sì, me conoscono in tanti. Mi chiamano così perché tutte le mattine vado a sentire la Santa Messa proprio qua. Perché c'è il bambinello che a me mi piace tanto. Mica che gli chiedo una grazia, no. Per quella c'è sempre tempo. Sono ancora tanto giovane e c'ho tante cose da vedere. Per esempio, tante mattine, se c'ho tempo, do per bambinello, mi vivo il tram, il 20, qui a Piazza Venezia, che mi porta dritta dritta a San Pietro. Mi faccio un giro a borgo e me ne ritorno indietro a piedi. Dice... Perché o vai? Che te posso dire? Perché io sono felice. Dice... De che? E mica ce lo so. Mi piace il tram e poi... Oh, mi pare tanto bella sta aria fresca che ci sta. Mo' poi è pure autunno. E a me autunno mi piace più da primavera. Che ci devo fa? Vado sempre al contrario io. Mo' dice sempre mio padre. Metti tanto per ditte quei due signore che salivano le scale mentre io scendevo proprio adesso. Proprio mo'. Ste due signore... Qua fanno? Ste due vecchie e parevano l'arco di dito del Coliseo. Vabbè, poracce, non si dice manco se deve pensare. Bambinello mio, perdonami e proteggimi. Ma puro col fiatone, ste due stavano a ciancicarta, voce. Una diceva, guardando in piazza, che Mussolini è tanto bello e che a notte ci fa i sogni impuri. E allora si andava a confessare. Mo dico, sarà che so al contrario e de politica non ci so niente, eh? Ma de bellezza qualche cosa ci capisco. E se devo essere sincera fino in fondo, a me tanto bello non mi pare. Sarà un grand'uomo, per carità, oh, come dicono tutti, non li voglio mica contraddire. Ma bello proprio no, Che mica è bello come Giovannino il pasticcere, quello di via dei Portoghesi, con qua panzetta appena appena un po', che ci si riposa meglio che sul letto di piume. Che mica affascinoso come a Pietro, Pietruccio mio, col ciuffo dei capelli sempre 30 all'occhio, puro se sei impomata. Che se gli faccio una carezza rimango tutta appiccicata, ma la mano però non me la lavo. E poi lo sai che faccio? A sera mi accenno a radio e faccio finta di ballacce mentre che canta Zara prima. Anzi, sai che te dico? Faccio finta di essere io a Zara prima. Tanta oh, ma chi ha vista mai? Bello, Pietruccio, sì. Mi piace tanto. Per non parlare di Sesto, poi, che è il fratello di Quintino. Che Quintino mi corteggia e sai che c'è. Non è che mi dispiace manco lui, però Sesto c'ha un portamento, quel sinale da barbiere, che pare lui quello dell'opera. Come mi piace danno all'opera a me, le pianti che mi faccio. Me ce porta Ginetto e poi mi passa il fazzoletto, ormai c'è una collezione. Mi piace pure il cinematografo, Ce vado con Mimmo e il Calabrese. Quanto è caruccio, tutto riccio e moro e scuro scuro. C'è una pelle che gli odora d'erba sotto al sole, ma che vuoi mette? E poi c'è sta quel ruscetto, quello tutto timido, bassetto, come tenero, dolce dolce, mi pare marzapane. Mi passa sempre giù a bottega e quando che mi vede diventa tutto rosso, più rosso del rosso suo. Quanto mi piace! Chissà come si chiama. Mo oggi io chiedo. Ma quello poi zagaia. Alfredo invece non si incaglia. Quello non s'azzitta mai. E te credo. E re dei paini di testaccio. Gli vanno tutte appresso. E io sai che c'è? Nugliato! Ah, soddisfazione. Ani! E che sarebbe? E mica te casca una palla da corona? E se me casca, Alfred, che fai? Te metti a culumbrina e a ricoi? Perché no, mo, se lo vuoi davvero, gli arrivi da far credere all'incontrario. E io sono una regina, panna ritroso, no? Lo dice sempre papà mio. E quindi, Alfred, dove vai? Prima o dopo ce caschi pure tu. Tazzitti pure tu. E magari mi fai una serenata come a quelle di Renato. Che voce, che cantante. Peccato che mio padre l'altra sera mi ha tirato il pitale. Mi sa che non viene più. Ma poco male. Le regine si sposano li re. Ci penso sempre quando prego il bambinello e lui mi risponde: non ti preoccupare, Nine, c'è sta pure la cassa sul celibato e Alfredo, se sa, è a dupinse la tenaglia. E quindi io t'aspetto al varco, Alfredo. Vedi che sta in campana, perché dopo sarvo ognuno. Bella ragazza che c'hai 100 amanti, affacciate in tantina la loggetta, se sei maritunati tutti quanti, per fattela sentì sta canzonetta. Paraponsipo, paraponsipo, come canti bene, arrivacci un po'. C'è Peppino, c'è Ninetto, c'è sta Pippo l'avvocato, c'è Gigetto, c'è il t'armato, vi a vedere che pisca c'è, scendi giù bell'angioletto e te li conti con la mano. C'è sta puro il sacrestano, sema in 123, paraponsipo, paraponsipo, come canti bene, arrivacci un po'. De te sappiamo tutti qualche cosa, che c'ha i nastri lilla le mutande, le giarrettiere sono tutte rosa, e arbusto parti in cappia così grande. Paraponsipo, paraponsipo, come canto bene, arrivaccio un po'. C'è Donato, lo stallino, c'è Pietruccio, c'è il pelato, c'è Staffusto, lo sciancato, stanno tutti aspetta a te, scendi giù bell'angioletto. E mo non passa più nessuno. C'è contenti a uno a uno, 6.123, paramonsipo, paramonsipo, come canti beh, arrivacci un po'. Parlasse la stanzetta, ma non manca che n'avrà vista qualche d'una grossa, e la carta che era tutta quanta bianca, per la vergogna è diventata rossa. Paramonsipo, paraponsipo, come canti beh, arrivacci un po'. Vi è sentì sto concertino, titta suona l'organetto, pippa il flauto e ninetto, la chitarra sta a suonare, scendi giù sul portoncino. E mo non passa più nessuno. E c'è contenti a uno a uno, 6.123, come canti beh, paraponsipo, come canti beh, arrivacci un po', paraponsipo, paraponsipo, come canti beh, arrivacci un po', paraponsipo, paraponsipo, come canti beh, arrivacci un po'. Io sono Nina e ho fatto tanti mestieri in vita mia. Sì, puro quello. Ero una ragazzina quando mi hanno preso in casa, ma mi sono fatta subito un nome. Ero famosa per décolleté. Eh sì, ci ho sempre tenuto. Bisogna tenersi le care le cose che il Signore te dan dono, no? Mica che è di quelli enormi, no. È proporzionato, sodo, morbido, profumato, coi capezzoli che guardano al cielo. Quando ero in casa veniva considerata una cosa lussuosa. I clienti mia, come posso dire, ecco, gli portavano rispetto. E infatti mi chiamavano Rea Sisa. Ma Armandino no. Armandino l'ho capito subito che lui il rispetto lo portava a me. Eppure io portavo rispetto a lui. Anzi, a essere sincera, con lui da subito non mi venì di essere seria e professionale. Che omone che era. Arto, con le spalle a stampella, certe mani che parevano palanche. Ma che ve posso dire? Quando che toccava, che ne so, puro l'abbaciù, lo faceva delicato, morbido, profumato. Come le sise mie. Sì, proprio come quelle. E io mi facevo tutti i sogni che lui mi voleva bene e che mi portava via. E poi un giorno mi disse che si era fidanzato con la figlia del sarto che gli faceva i vestiti da damerino. Pensai, hai capito? Vi è qua a divertirsi e poi si sposa una ragazzina tutta timorosa di Dio, così è sicuro che è vergine. Allora una sera mi sono ubriacata. Fatta un quartino, ma dato alla testa, ammazza che topo, Marina, roscetta modè, statemi qua, anvedi le foglie, anvedi la luna, anvedi le case, e chi l'ha mai vista con st'occhi mi vien da cantare. Lassami perde, vada un'altra va, stasera cocco niente da fa. E poi so vecchia, c'ho 30 anni e al mondo ancora l'ho da guardare. Mamma mia, che luce che vedo attorno, le vie de testaccio mi pareno come de giorno de n'altra città. Vedi le porte, vedi il bar, vedi la gente, vedi le fronne che staria se fa sfarfallare. Oh, va via amoretto, fa la bella, va, stasera godo la libertà, spara il guzzetto e torna a casa, va, che mamma tua te sta aspettando. Me so presa la coppa e mo so felice, me possi cegamme, me sento tornata e sen fiore de verginità. Verginità, verginità, mi sento tutta verginità, che sarà, chi lo sa, che sarà, chi lo sa. La verginità, vai a spiegare che io ero vergine in testa. E io manco io so di Armandì, io c'ho tutto l'amore del mondo dentro a ste lacrime che mi scendono dagli occhi quando te penso. Eh sì, quella sera me ne sono ita all'osteria e me sono ubriacata e pensavo che dopo mi sarei buttata da Ponte Garibaldi come qua Nina del Barcarolo, proprio come a lei. Chissà che m'era venuto a mente. Ero giovane, non capivo niente. E ci sono arrivata al ponte, tutta ubriaca. Ma quando che stavo là, mi sono girata e mi sono vista uno striscione attaccato che diceva: stufi di tanta luce, vogliamo stare all'oscuro. Se la vadano a pianculo, duce, fascismo e re. Oh, e mi è venuto così da ride. E allora non mi sono ammazzata più. È stato lì che ho deciso di parlare, Armandino. E ci ho parlato. Eh sì che ci ho parlato. Armandino, io non so parlare. Ma mo che stai qua, vicino a me, io te lo devo spiegare, che sta magia che sento per te non la potrei sentire se non la senti tu. Che sto incontro tra te e me, puro si dura un minuto, puro tra 100 silenzi, 1000 parole, Armandì, sto minuto ci appartiene, a te e a me. Puro si mo non torni più qui da me, sti incanto ci appartiene, è solo nostro, mio e tuo. Tuo e mio. E te lo direi ogni momento. Me vorrei mettere a strillare così mi senti. Ma che te devo dire? Una volta è scirocco, un'altra è tramontana. E allora mi sto zitta. Io non te chiedo niente. Non te chiedo niente. E mica perché non c'ho diritto. Anzi, ce l'ho. Perché tutto questo ci appartiene. Ma non ti chiedo niente, perché io non voglio niente che tu non mi vuoi dare. Armandì, sono stata chiara. E lui mi ha guardato, mi ha fatto una carezza e mi ha risposto: Anille, non c'è bisogno che parli, ce lo so già. Ah sì? E allora non te lo scordà. Mi dice sempre il cuore, sta zitta, non parla, è mica dell'amore. È la sincerità, ma quando tu mi guardi, io non so più mentire, te voglio tanto bene, te lo voglio dire. Ma quando tu mi guardi, io non so più mentire. Te voglio tanto bene e te lo voglio dire. E beh, Armandino ha cambiato sarto e mi ha portato via. Da sua sorella, in campagna, arrivamme una verginità. E mi sono messa a fare la contadina. E meno male, che poi è scoppiata la guerra e sono stati anni pesanti. Eppure Armandino ha chiuso il negozio quando sono arrivati lì i tedeschi. È venuto in campagna pure lui. E m'ha sposato. E poi ho fatto subito il pupo. Gigi, quanto è bello, Gigetto mio. E a fa la moglie onorata, a fa la madre. Sì che è mestiere di fatica. Ma non me lamentavo. Che poi Armandino la sera tornava a casa. Mi faceva una carezza. Mi guardava. Io gli dicevo, Armandì, non te lo scordà. E lui mi rispondeva, che ci appartiene, e si metteva a ride. Poi un giorno l'ho guardato dritto in fondo all'occhio e l'ho capito subito che qualcosa non andava. Armandì, va dal dottore. E perché? Mica mi sento male. Armandì, e c'è ido dal dottore. Signor Armando, lei sta male, ma proprio tanto male. E mi ha lasciato. Sverto, sverto. Manco un anno è durato. Però se ne è ido sereno. Sereno come sempre. Mi ha sorriso. Mi ha fatto una carezza e mi ha detto, Ninè, non te lo scordà. Non me lo scordo, Armandì. E mo mi sono imparata il mestiere da vedova. Gli portano tutti rispetto a sora Ninà. E Gigetto è un bravo figlio che studia e mi dà tante soddisfazioni. E io sono serena, perché io non me lo scordo, che Armando mi appartiene, appartiene solo a me, dovunque sta, ogni momento. E non ve lo scordate. Amore, amore, amore, amore mio, in braccio a te mi scordo ogni dolore. Voglio restare con te sino a me moro. Voglio restare con te sino a me moro. Voglio restare con te, se non me moro. Non piagne amore, non piagne amore mio. Non piagne, state zitto su sto cuore, ma si te fa soffrire, dimmelo pure. Quello che mai da di, dimmelo pure. Quello che mai da di, dimmelo. Penso amore, te penso, amore mio, tu sei partito e mai lasciata sola, ma tu non sai che sento nel seno mio. Ci sento un figlio tuo che me consola. sento un figlio tuo che me consola. Ci sento un figlio tuo. Deve essere stato il corredino verde. Sì, proprio quello. Se fosse stato rosa, chissà mo che stavo a fa'. A parte quello che faccio sempre. L'avete capito, no? Che io sono una che racconta storie. Come quelle che vi ho raccontato fino a mo. Mi piace te raccontare storie. Anche se tante volte non esiste una storia. Ma che ve posso dire? Io vivo qua. Circondata da cose, odori, strade. Ci stanno angoli che non visito mai. Come la Cappella Sistina ripulita. Oh, quando deciderò dannacce... Sarà zozza un'altra volta. Che ve stava a dire? Ah, sì. Che io vivo qua. Dove li pensieri, pure quelli che mi fanno paura, pieno forma, pieno senso, eppure li desideri, li percorsi, le speranze. Insomma, oh, me so spiegata? Beh, non lo so. So solo che per oggi le storie ve ne ho raccontate pure troppe. Che non ve bastano nonne, bisnonne, zie, drisavole. A dire la verità, ve volevo raccontare la storia delle storie. A Nina delle Nine. Ma sì, insomma, famosa a capì. Sto parlando della storia di lei. Di mia madre. Ma sai che c'è? Che mia madre è il bene mio più grande. La pietra più preziosa che c'ho. E so gelosa, perciò mi dispiace, ma lei me la tengo per me. De sta nottata piena de dolcezze pare che non esistano dolori. Un venticello come una carezza smuove le fronne e fa baciare i fiori. Nina, se voi dormite sognate che io ve bacio e v'addorcisco il sogno cantando adagio profumo dei fiori che se confonde col canto mio se tra le fronde. Però se io costo canto ho svegliato ma ricomando che me perdonate. L'amore non se frena, Nine, amate, cavole bene, no, non è peccato. Vabbè, su, dai, si è fatta una certa, no? Ah, Nine, è ora che voi dormite. Oppure, che voi amate. Insomma, fare un po' come ve pare. E a tutti gli altri, beh, che ve posso dire? Beccate vesti spicci. Profumo dei fiori. Che se confonde. cor canto mio se va. Tra le frode.